Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Carolina Tana, se io dico cuore di mamma, cosa mi risponde? Rispondo che ho avuto una madre che non si può definire mamma, ma genitrice senza cuore. Era proprio tua madre, sì, su quello non c'è dubbio. Su quello non c'è dubbio, sì, ahimè sì. Qual è la cosa più brutta che ti ha fatto tua madre, di tutte quelle che ti ha fatto, che racconteremo fra un po'? Togliermi un padre. Tua madre, a un certo punto della tua vita, cosa ti disse di dire di tuo padre? Mia madre mi disse di dire che mio padre era un mostro, che era il cattivo, che aveva giocato con me, che mi toccava, che abusava di me sessualmente e che era un padre cattivo in casa, che picchiava la mamma e che picchiava la Carolina, la sua bimba, la sua palletta. E questo cosa le serviva? Le serviva ad ottenere il mio affidamento, il mio possesso, come lo definisco io. Gli serviva ad ottenere dei soldi, perché era una donna assetata di soldi e di potere. Le serviva ad ottenere tutto ciò che lei aveva, ossia io. Oggi dov'è tua madre? Credo che sia ancora in carcere, o perlomeno me lo auguro, dopo tutti questi anni, dopo tutte le diverse condanne, entrata e uscita dal carcere diverse volte. E tuo padre invece dov'è? Mio padre, per fortuna è vivo, vive a Roma, che io sappia ha più di 80 anni, perché io Gianluca neanche conosco esattamente la data di nascita di mio padre. E purtroppo però non lo vedo da quando avevo 12 anni e ne ho 32 ad oggi. Carolina Tana, giuro di dire la verità, nient'altro che la verità. Alpes Editore è il libro di cui parleremo oggi. Carolina Tana in studio con me, ha una storia tragica, tragica a dir poco, che ci racconterà da qui alla fine della trasmissione. Melog. Cronache meridiane. Non saprei dire alle persone che mi ascoltano questa mattina perché chiamare. Comunque il numero aperto è 800240024. Io parlerò con Carolina da qui alla fine della trasmissione, interrompendola soltanto per farle domande e per chiedergli di approfondire alcuni aspetti della sua storia. Voi potete ascoltare, potete chiamare all'800240024 e intervenire, portare la vostra storia a supporto o a confronto di quella di Carolina, o semplicemente esprimere un vostro parere, un vostro giudizio, quello che vi va di dire e di pensare su quello che racconteremo. Quando sei nata, Carolina? Sono nata il 21 marzo del 1983. A Roma? A Ginevra. A Ginevra. E nevicava, come racconta mio padre nel suo libro, che tengo a dire che si intitola Il buio negli occhi. Tuo padre era un gran ficolo, come lo descrivi. Sì, era l'uomo della mia vita, come tutti i padri lo sono per le loro figlie. Bello, alto. Sportivo. Sportivo, in forma, con questi bellissimi capelli brizzolati. E da quello sguardo, da quegli occhi che quando mi guardava lui stesso aveva gli occhi a stelline, anche se proprio lui definì il mio sguardo. Quindi i primi stelline. Anni, i primissimi anni della tua vita li hai vissuti, si può dire, felicemente? I primi 8 anni della mia vita abbastanza felicemente. Questo abbastanza lo dico perché non ho vissuto mio padre pienamente, normalmente, amorevolmente. Ma perché era un uomo impegnato, aveva un ruolo importante. Era un uomo impegnato, ma purtroppo c'era sempre una barriera, la barriera di mia madre. L'ostacolo da superare. Era un ostacolo che doveva essere superato da me e da mio padre. E anche tua madre era una bella donna. Sì, sì, io devo ammetterlo, sì, bella donna. Era, anche lo sarà tuttora probabilmente. Quanti anni ha oggi tua madre? Credo che ne abbia più di 60 dalle ultime foto che ho potuto vedere su internet. Da dove veniva tua madre? Portoghese, di origine brasiliana, anche con del sangue brasiliano. Venuta in Italia molto giovane. Ho scoperto poi che era stata anche sposata precedentemente a mio padre. Poi l'hai saputo tardi? L'ho saputo molto tardi perché mia madre mi ha sempre mentito. Quindi tu praticamente la biografia di tua madre l'hai ricostruita nel tempo, decenni dopo quello che è accaduto, che raccontiamo questa mattina. Esatto, l'ho ricostruita anche andando a cercare delle vere e proprie informazioni, delle prove per capire come un essere umano e come un genitore, come una madre potesse fare tutto quello che ha fatto con me e soprattutto come potesse agire in quel modo nei confronti di mio padre. Il primo ricordo lancinante, doloroso, legato appunto al dramma di tua madre. Tua madre è una delle cosiddette madri assassine, anche se non ti ha ucciso in effetti, ma però ho esercitato su di te una tale costante e inveterata crudeltà che per un banale gioco del caso tu sei ancora integra, ne parli tranquillamente, dovresti essere una sorta di residuo umano, e invece, come abbiamo detto poco fa, ci sono tragedie talmente grosse che invece che distruggersi ti salvano, hai gli anticorpi ormai per tutto. E qual è il primo ricordo brutto di tua madre? È veramente brutto. Veramente brutto sicuramente la violenza fisica, il primo impatto con dei gesti, delle mani violente su di me, quelle mani che erano di mia madre. Quindi ti picchiava? Mi picchiava, sì, però forse l'episodio più violento sono state le sue parole di vendetta, di cattiveria nei confronti di mio padre. Perché tuo padre un giorno ha deciso di separarsi, succede questo, no? Certo, succede, soprattutto con una donna come lei. Sarà rotto le scatole e basta, l'ha detto basta. Ma lui questa cosa, te come l'hai saputa? La parte di tua madre, te l'ha detto lei? No, io purtroppo, ecco, il fatto più importante della mia vita è stato purtroppo l'addio di mio padre. Lui uscì di casa sbattendo la porta, non lo sto accusando, anzi lo capisco, solamente chi ha vissuto con quella donna lo può capire, e decise di chiedere il divorzio. Non decise di abbandonare la propria figlia, tutt'altro, però decise di abbandonare quella che non poteva essere più sua moglie, non era una madre degna. Da lì mia madre iniziò ad alienarmi. Ad oggi si parla della PAS, si parla dell'alienazione parentale. Io ne sono stata vittima e ci tengo a mandare avanti questa mia battaglia personale, pubblica, che appunto parla di questa sindrome che possiamo anche definire un lavaggio del cervello, una manipolazione. Ecco, mia madre ha iniziato proprio da lì, Gianluca. Ecco, tu nel tuo libro leggo: sei figlia mia, tesoro della mamma, forse non ti ricordi, ma quando eri più piccolino papà voleva sempre farti fare il bagnetto e giocare con la paperella, non ti ricordi? E papà la metteva anche la paperella tra le tue coscette, ti faceva male, molto male, non ti ricordi? Per fortuna ero lì io per aiutarti, io sono la tua mamma, io ti voglio bene, lui no. Questo dice la tua madre. Questo diceva mia madre, purtroppo non si fermava a questo. Cercava nel mio immaginario di creare vere e proprie immagini che non erano vere. E cioè ti induceva una vita che non avevi vissuto, un meccanismo folle, ma sono tecniche psichiatriche, un ipnotista può farlo. Hai detto benissimo, sono tecniche psichiatriche. E cosa succede? Nella maggior parte dei casi sono purtroppo le donne ad allenare i figli contro i propri mariti, ma queste donne iniziano ad agire in questo modo quando hanno un rifiuto. In quel caso era stato il rifiuto di mio padre a scaturire tutta questa rabbia da parte di mia madre. Accade anche agli uomini, gli uomini menano le donne quando sono rifiutati, anche noi ci comportiamo benino in queste situazioni. Assolutamente. Però tu conosci questo lato. Allora, queste dichiarazioni che dovevano in qualche maniera coinvolgere tuo padre in un atteggiamento criminoso erano finalizzate a un vantaggio nella causa di divorzio, immagino, no? Tu sei stata in tribunale a dover dire queste cose, cioè ti hanno sentito dei periti comunque. Tu eri, sì, una bambina, quanto avevi a quel tempo? Io avevo 8 anni. 8 anni, quindi ti hanno sentito dei periti, qualcuno avrà parlato con te. La gravità è che non solo mi hanno ascoltato dei periti, anche professori come il professor Bollea, che purtroppo ad oggi non c'è più, che definivano la bambina Carolina, quindi io, un robot tra le mani della madre, e definivano mia madre una donna estremamente manipolatrice, e dicevano anche che urgeva togliere Carolina dalla madre per affidarla al padre. Nonostante queste perizie, nonostante fui ascoltata, nonostante fu ascoltata anche mia madre, io purtroppo venni affidata a mio padre. A tuo padre affidato? A mia madre, perdonami. Forse il desiderio è talmente grande che ogni tanto ho dei lapsus. Sì, perché è una tendenza generalizzata che alla fine pensa sempre comunque il tribunale che la madre è sempre la persona, è l'alveo più protettivo per i figli. Questa è una... Purtroppo sì, ma nel mio caso è stato talmente, talmente grave che sono stata anche affidata a lei, perché dicevano che il rapporto con il padre era irrecuperabile. Ecco, io ovviamente dicevo delle bugie, ma all'epoca non mi rendevo conto che quelle erano bugie. Le bugie quali erano? Ecco, di aver avuto una violenza fisica e sessuale da parte di tuo padre, poi cos'altro? Di aver avuto dei maltrattamenti da parte di mio padre, di aver avuto degli abusi sessuali, degli atti di libidine, li definirono così, anche perché ovviamente non potevano esserci le prove fisiche. Ma tu eri convinta, adesso è difficile pensare quello che pensavi da bambina, ma eri convinta fosse accaduto davvero, perché te lo diceva la mamma? Io ero convinta, sì, diciamo che io ero completamente in balia di mia madre, di quello che lei diceva, dove ti posso garantire che purtroppo quando la tua stessa madre, la tua genitrice, che dice volerti bene, tu credi volerti bene, ti induce a vedere dentro la tua testa delle determinate immagini, delle cose, tu fai talmente tanta confusione che queste cose poi alla fine diventano realtà. È chiaro, le allucini, il meccanismo è perfetto. Lo scopo quindi è stato raggiunto. Alla fine, diciamo, il tribunale cosa ha deciso nei confronti di tuo padre? Lo ha condannato? Allora, il tribunale ha deciso, innanzitutto il tribunale dei minori all'epoca, di affidarmi appunto a mia madre, e lì fu diciamo il fatto più eclatante che segnò la mia vita. Per fortuna mio padre fu assolto, ci tengo a dirlo, perché il fatto non sussisteva. Quindi non fu compromesso da questa menzogna, diciamo. Legalmente, per fortuna no, ovviamente l'opinione pubblica, ahimè, fu molto forte, anche perché fu trattato da pedofilo, era un grosso esponente della finanza in quegli anni, una persona anche abbastanza pubblica, e ovviamente il suo amore, il suo orgoglio, il fatto di essere padre fu distrutto. Sono quelle accuse, poi è sempre difficile liberarsi, c'è sempre qualcuno che pensa, ma sì, vedi, sai, il tribunale, però sai, lo vedi con mille sedi dalla faccia, sempre così. Andiamo avanti. Nel frattempo tua madre si trova un altro compagno. Si trova un altro compagno e con lui... Cambia la tua vita, lasci la casa bella che avevi, vai in un altro posto. E questo nuovo compagno chi era? Mi porta via da Roma, e questo nuovo compagno era un ricco industriale vicentino. Lo sceglieva sempre bene, diciamo. Sì, sì, erano scelti ben bene, quasi su catalogo direi. Non so dove lo avesse conosciuto, ho la mia vaga idea. E andammo a vivere da Roma a Milano, insieme al suo compagno, alienato anche lui, perché questa persona lasciò, che io sappia, famiglia, con figli, moglie e quant'altro, senza divorziare. Iniziò a delinquere con mia madre. Dunque anche lui in qualche modo ebbe una sorta di odio e voglia di vendetta nei confronti di mio padre. Vabbè, era un uomo attizzato dalla gelosia, è chiaro, non ammetteva che la donna che lo aveva preso in questa maniera avesse avuto un altro uomo prima, faceva i confronti, era più bello, più ricco, più fascinoso, più importante, e lei alimentava questo complesso, penso, capito? Perché lo scopo era la distruzione. Quindi tu fai una vita brutta, passi in una casa dove vivevi promiscuo, vivevi di notte, non potevi manco andare in bagno, letto, perché l'unico bagno era in camera dei tuoi genitori, sentivi scintille, faville in quel tramezzo, sentì tua madre che guaiva di piacere e tu manco dovevi andare a fare la pipì in bagno. Esatto, mia madre mi imponeva anche delle abitudini quasi da animale, che poi purtroppo andremo a scoprire più avanti nel racconto come infliggeva appunto alla bambina. Io vivevo con le H24, la sua assistente, e vivevo costantemente anche i loro piani diabolici, tra cui appunto quello a un certo punto di voler uccidere mio padre, perché a mia madre non bastava aver ottenuto il affidamento. Avevano messo a punto un piano per uccidere tuo padre. Sì. E tu ne eri a conoscenza, una bambina come faceva a saperlo? Io non ero a conoscenza nell'immediato del tentativo di omicidio, ma ero a conoscenza di giri strani, di soldi, di valigette, di incontri. E chi avrebbe dovuto ucciderlo tuo padre? Due ex carabinieri e un detective che loro avevano ingaggiato. E queste cose che dici, diciamo, hanno una traccia da qualche parte? Assolutamente sì, sono persone che sono state condannate, altre reo confesse. Infatti nel 96, lo possiamo leggere anche dalle cronache dei giornali dell'epoca e da internet, mio padre purtroppo fu gambizzato davanti al circolo canottieri Aniene. E cos'è che ti ho fatto questa domanda? Perché le cose che stai dicendo e che dirai da qui alla fine della trasmissione sembrano talmente incredibili che ogni volta voglio confermare agli ascoltatori, questo libro si chiama appunto Giuro dire la verità, tutt'altro la verità, è comunque corroborato da fatti processuali che ci sono, stanno nei giornali, stanno nella letteratura, sono tutte cose comunque hanno avuto il loro esito, non è che rimane nel tuo racconto, quindi sono cose, non entriamo qui nei particolari, nelle persone, che è complicato. Nel frattempo questo tentativo non riuscito di uccidere tuo padre, però in qualche maniera tuo padre, qualcuno ha sparato. E quando tu leggi sui giornali che tuo padre è stato gambizzato, cosa pensi? Allora, io all'epoca, Gianluca, ero stata portata via dall'Italia da mia madre e dal suo compagno. Mi portarono a vivere in Francia, io non venni mai scolarizzata, vivevo una vita veramente al di fuori dal mondo. Ripeto, dovevo dormire con mia madre, mi chiudeva in stanza a chiave. L'unica mia via di uscita era ogni tanto vedere la televisione. In Francia l'unica televisione che si poteva vedere era la Rai. Rai 1, sì. Quindi Rai 1, vedendo una serie sera il TG1, vidi mio padre sdraiato su un lettino di un'ambulanza, sanguinante, dove accusava la mandante di quell'agguato, dove accusava mia madre come essere appunto la mandante insieme al suo compagno. E si è cominciato a fare qualche domanda. Noi ci fermiamo soltanto un istante, diamo la linea alle informazioni del traffico, non so bene di cosa, e ci sentiamo fra un po'. Pubblicità. Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo: di chi stai parlando? Non abbiamo capito. Parlo con Carolina Tana, che ha scritto un libro, Giuro di dire la verità, nient'altro che la verità, che è il libro in cui racconta finalmente tutta la storia della sua vita. Lo può raccontare adesso liberamente, lucidamente, con cognizione di causa. Una vita disastrosa, disastrosa dal punto di vista dell'affettività familiare, perché ha avuto una famiglia fortemente compromessa da una madre che aveva in sé quello che si direbbe una sorta di predisposizione alla cattiveria, se volessi dare un giudizio moralistico. Poi non so, non voglio entrare nelle radici. Comunque una donna che è come quelle persone che camminano per strada e appassiscono i fiori intorno a lei, ma lo dico laicamente, lo dico senza nessun risentimento, oggettivamente. Ci sono persone che profumano di gelsomino e emanano santità, altre persone quello che toccano porta male, non in senso superstizioso, nel senso che porta proprio il male. Franco, buongiorno. Buongiorno, io sono stato uno di quelli che sono stato minacciato sotto accusa di andare dai giudici a contare chissà quali tipi di violenze, di togliere i figli. A me è andato ancora bene, anche se diciamo mi ha sconvolto la vita, mia figlia non ha voluto vedermi per un po', adesso ho ancora dei problemi. Comunque non è di me che mi volevo parlare, è solo una domanda tecnica. Siccome io sono stato anche dipendente pubblico, come mai questi assistenti sociali, che sono stragrande maggioranza donne, certi giudici, no, che regolarmente continuano a fare questo sistema? Allontaniamo subito il padre e poi con calma controlliamo. Intanto, a parte quei pochissimi casi che esistono veramente, perché sono anche dei padri bastardi, però in genere l'85-86% statistiche ufficiali dei tribunali va tutto ad archiviarsi, no? Allora io mi chiedo, ma tutta sta gente qua perché non paga mai? Dov'è l'articolo 3? Beh, in questo caso qualcuno ha pagato. Adesso farò la domanda a Carolina Tana, che gli risponderà. Io dico il mio punto di vista, non ho esperienze in merito, conosco le cronache, leggo le statistiche, ho molte volte raccolto testimonianze simili alla sua, perché siamo in un paese in cui ci sono alcune cose intoccabili. Una di quelle intoccabili è il cuore della mamma. Ah, la mamma non si tocca. Le mamme non sono mai sotto accusa in questo paese. Abbiamo figlie massacrate dalle madri che a 50 anni ancora tremano come foglie se la madre le guarda e dice: ma tu hai un uomo? No mamma, non ho nessuno, sono sola. E ci sono famiglie massacrate, uomini massacrati da donne che usano come terreno di scontro per ottenere il più possibile da un punto di vista di vantaggio economico proprio i figli. Carolina Tana, rispondi all'ascoltatore. Allora, ciao Franco, e innanzitutto mi dispiace per quello che ti è accaduto in passato, e l'augurio che ti posso fare è veramente di recuperare tua figlia e continua a combattere, ecco, anche se non la vedi magari spesso come mi è sembrato di capire, continua ad andare avanti. Ti ringrazio anche per la domanda intelligente che hai fatto, perché il dibattito proprio di questi giorni, che sto affrontando anche io spesso insieme al mio libro, alla mia storia, è quello degli assistenti sociali. Ecco, nel mio caso gli assistenti sociali furono completamente alienati, se possiamo dire così, presi in balia dalle follie di mia madre e messi in mezzo nel gioco, si prestavano al gioco di mia madre. Non è giusto, non sono qui ad accusare tutta la categoria, però non possiamo lasciare che questi casi vengano affrontati e gestiti da persone spesso psicologicamente, psichiatricamente incompetenti, perché tutto parte da lì. La prima cosa che viene fatta in seguito ad una denuncia, ad una richiesta di separazione dove c'è un minore di mezzo, è mettere appunto un assistente sociale, ma non c'è la giusta competenza, non ce la possono fare da soli, e nel mio caso non hanno mai pagato le conseguenze, ma del resto neanche i giudici che mi affidarono a mia madre. Siamo arrivati a una nuova vita che in teoria potrebbe iniziare per te, ma compromessa fortemente. Un padre processato su delle accuse false indotte da una madre e una bambina piccola. e una nuova famiglia. Tu con tua madre, col suo nuovo uomo, di cui era totalmente la padrona assoluta, ha avuto anche due figli, racconti nel tuo libro. Allora, perlomeno sulla carta ha avuto due figli. Sulla carta, come dice giustamente, ha avuto due figli. Tengo a precisare che oltre alla sparatoria nei confronti di mio padre gli era stata anche messa della cocaina e del materiale pedopornografico. Questo per screditare ancora di più l'immagine di mio padre. Perdono, ammazzarlo e anche sputtanarlo, così proprio era esatto. Seppellito per sempre sotto una coltre di cemento armato. E invece gli è andata male. Esatto. Il suo compagno, il compagno di mia madre... Ferma un attimo, dice un ascoltatore, il libro precedente di Carolina come mai era di diverso tenore? Ecco, spiega il primo libro. Sì, allora arriviamo al primo libro rapidamente. Su questi è adesso titoli, il momento del primo adesso. Libro. Sì, La bugiarda. Ecco, dopo la sparatoria, dopo l'agguato, mia madre non era contenta, non era abbastanza. Mio padre doveva essere eliminato, ma soprattutto mio padre doveva essere eliminato dalla mia mente e soprattutto Carolina doveva essere eliminata dalla mente del papà. Quindi mia madre organizza insieme al suo compagno l'ennesimo piano, quello di far scrivere, e ripeto far scrivere. Tu quanti anni avevi al tempo? Ero minorenne, avevo 16 anni. Quindi una ghostwriter che ti scriveva il libro per te. Esatto, con mia madre che eseguiva il dettato e appunti davanti a me e il titolo del libro appunto era La bugiarda. E cosa doveva dire questo libro? Questo libro doveva dire che la giustizia si era venduta a mio padre, che io che dicevo la verità ero stata invece considerata la bugiarda, da cui l'idea del titolo per mia madre, e che era assurdo che mio padre non fosse in carcere, che la mia vita era stata distrutta, io piccola e povera bambina non fui ascoltata all'epoca, vittima di servizi sessuali con un mostro in circolazione. Che fortuna ebbe questo libro? Ebbe la fortuna e sfortuna del successo che portò al sequestro del libro che giustamente mio padre lo fece sequestrare, perché è un libro che lo diffamava. Certo. Un libro fatto di menzogne su cui tu non avevi messo nulla, perché di tuo non c'era niente. Assolutamente nulla, ma dove mia madre mi usò per esserne portavoce in quanto minorenne, in quanto ancora tra le sue mani. Mi ritrovai anche in studi televisivi o radiofonici in cui dovevi comunque avvalorare le tesi di questo libro. Sì, e dove avevo mia madre che firmava le liberatorie, dove non c'era nessuno che andava a certificare se appunto i fatti erano veri o no, con l'aggravante che mio padre nel frattempo era già stato assolto. Quindi da diversi anni. Nei salottini televisivi, nei grandi salotti. Certo, con questa madre sempre presente che arrivava in questi studi piangendo, urlando, dicendo che la sua bambina aveva voglia di dire la verità. Vabbè, erano gli anni di Ciro Ciro di Sandra Milo, quindi la televisione aveva un bel format usato e sfruttato di legare madri piangenti a figli disastrati. Allora, ma parliamo dei tuoi fratelli tuoi. Tu a un certo punto sono nati due fratelli, un fratello e una sorella? Sì, allora un bambino e una bambina. Ma da dove venivano? Allora, non sono i miei fratelli di sangue ed arrivarono, lo dico sempre, in poche ore. Mia madre fece finta negli ultimi anni di essere incinta. Cioè girava per casa con la pancia? Sì, con dei cuscini. E dice la mamma è incinta, c'è il fratellino. Esatto. Senti il cuoricino come batte. Esatto, solo che non potevo toccarla appunto quella pancia e si innervosiva molto perché non c'era nessun cuoricino. Tu ogni tanto hai visto dei segni inequivocabili che non fosse incinta. Certo, aveva il ciclo mestruale, vedevo quando andava in bagno e lei mi accusava di essere una matta perché tua mamma è incinta, che cosa stai dicendo Carolina? E poi arrivava il fratellino. E poi arrivava il fratellino in poche ore, nelle ore notturne. Beh. Il primo fu così, fu un maschietto venuto al mondo in Svizzera, a Ginevra. E dove appunto in una camera d'albergo mi lasciarono come era di solito fare per loro ed arrivarono poche ore dopo col fratellino. E la sorellina? La sorellina arrivò un anno dopo. Sempre la stessa pantomima, mamma incinta col cuscino. Sì, solo che allora era pomeridiana, quindi cambiava un pochettino l'orario d'arrivo della cesta con il bebè. E questa volta non solo era di sesso femminile, ma era anche, secondo lei, parole sue, un piccolo mostro. E perché diceva così? Perché era brutta fisicamente. Mia madre si è scoperto poi negli anni, dopo il suo arresto, che era vittima di una patologia, che era anche una patologia che aveva Hitler, dell'eugenismo. Lei non amava tutto ciò che non era bello e puro e quindi considerava questa bambina non pura, essendo non di bella. Origine brasiliana era un po' problematico, il paese più mixato del mondo. Esatto, e proprio questo mixaggio lei non accettava, infatti rinnegava le sue origini mettendosi addirittura delle lenti a contatto colorate, dicendo che non era brasiliana. Esatto. E questa bambina con chi l'aveva fatta fare? Non lo so e cercavo all'epoca di capire da dove venissero quei bambini e soprattutto quella bambina. Perché soprattutto quella bambina? Perché purtroppo fu seviziata fisicamente dal primo giorno del suo arrivo. Tua madre per questo adesso è in prigione? Sì, riuscì a denunciarla aspettando la mia maggiore età nel 2003. Chi la denunciò? Io. E avevi delle prove per dimostrare? Avevo delle prove, ci ho messo anni ed anni a recuperare le prove. Innanzitutto, mi ripeto, dovevo essere maggiorenne perché io vivevo segregata all'estero, senza andare a scuola, senza familiari, senza persone di fiducia o conoscenti. Eri sotto la tutela di tua madre? Sotto la tutela e sotto il sequestro, io lo chiamo così, di mia madre, perché non avevo nessun contatto con la realtà esterna. Quindi non potevo gridare aiuto. E nel frattempo ovviamente mio padre stava cercando di ricostruirsi fisicamente e mentalmente. E continuava a picchiare tua madre in quel periodo? Sì, e anche lui. E lui era completamente... Il nuovo marito picchiava tua madre? Picchiava te? Picchiava me ed era succube di lei. Ho cercato anche di avere un dialogo, un rapporto con quest'uomo, dicendogli: ma ti rendi conto che cosa sta facendo questa donna? E lui la scusava e diceva che tutto quello che lei faceva era... Invece i due fratelli cosa faceva? Il fratello e la sorella piccoli? Il bambino aveva problemi di autismo, ma data l'eccessiva protezione e possessività di mia madre, stesse attenzioni che lei aveva appunto quando ero piccola io. Anche lì mi resi conto che l'atteggiamento di mia madre non era normale, feci un flashback e iniziai a capire tante cose. Qual è la sentenza per cui è stata condannata e incarcerata tua madre esattamente? Per maltrattamenti e abusi sui minori, in questo caso sul bambino e sulla bambina. Io denunciai i fatti in seguito a una grandissima e forte litigata dove mia madre cercò di uccidermi con un coltello da cucina in questa grande villa Saint-Tropez dove abitavamo insieme al suo compagno e dove la bambina era segregata in cantina, legata e tenuta con la bocca chiusa con dello scotch. Scusa, ma in quella villa avrete avuto una servitù, 200 camerieri, nessuno di questo si accorgeva o diceva nulla? No, perché non era permesso entrare a nessuno. C'era solo il giardiniere a determinate ore della giornata e mia madre proprio per questo, nella villa dell'orrore, non voleva nessuno. Usava esattamente gli stessi comportamenti quando ci spostavamo negli alberghi. Pretendeva che nessuna donna di servizio entrasse a fare le pulizie, anche perché la bambina negli alberghi dormiva nella vasca da bagno o nell'armadio. Mia madre non accettò mai quella bambina. Perché era brutta, era un po' troppo scura di pelle. Sì, e perché era femmina. E qualsiasi essere femminile, anche nei cani o negli animali, lei non lo poteva accettare, perché in qualche modo era mettersi a confronto con un altro essere femminile. Nell'hotel de Russi cosa successe? Successe che io scappai, avevo 18 anni e denunciai i fatti andando alla polizia qui a Roma. Mandarono una pattuglia. Mia madre fu così furba e così alienante nuovamente che quando arrivò la polizia aveva già ripulito le prove, vestito la bambina che non era più nella vasca da bagno, messo in piedi giocattoli e giocattolini e il bambino dicendo che sua figlia Carolina era drogata e che non era vero quello che diceva, ma che addirittura bisognava ricercarle immediatamente. Dove sono finiti i tuoi fratelli adesso? Dunque, dopo l'incarcerazione sono andati in istituto in Francia, perché appunto, ripeto, la denuncia è avvenuta in Francia. La giustizia francese mi ascoltò a dicembre del 2003, anche perché mi ritrovò piena di sangue e in condizioni fisiche gravi, e arrestò immediatamente mia madre e il suo compagno. Insieme all'arresto, purtroppo, appunto, i due bambini furono mandati in istituto e lottai per far capire agli inquirenti, alla polizia, ai giudici che quei bambini non erano figli di mia madre, perché mia madre dopo l'incarcerazione continuava a dire che i figli erano suoi. Addirittura feci anch'io un test del DNA e addirittura passai io 48 ore in cella, perché nonostante fossi la persona che denunciò i fatti, credevano, data la follia del caso, che ero talmente terrorizzata da mia madre che ero stata io a partorire quei bambini, ma che non lo volevo dire. Riprendiamo il fiato un attimo, il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024 in studio Carolina Tana, autrice di Giuro di dire la verità, nient'altro che la verità, edizioni Alpes, il libro in cui racconta finalmente quella che è stata la sua vita, all'ascoltatore che mi dice: Nicoletti, esistono ancora le madri frigorifero? Dica qualcosa. Guardate, questo è l'unico argomento su cui mi trovate sempre preparato. Esistono madri stronze in questo caso, non madri frigorifero. Un bambino picchiato, alienato, segregato, potrebbe accadergli di tutto. Ha detto la mia ospite è diventato autistico. Non so esattamente se sia quello il caso. Comunque, un bambino che sicuramente ha avuto dei problemi. L'autismo è ben altra cosa e non deriva dalla madre. Ma non mi sembra il caso in questo momento di spaccare il capello, visto che il problema è un altro. Graziella, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Velocemente. Niente, io volevo dare la mia testimonianza. Io ho lavorato come assistente sociale e ricordo con terrore quando le competenze sul settore minori sono passate dal tribunale minorenni ai comuni. I nostri dirigenti ci hanno detto: arrangiatevi, datevi da fare. Io ho lavorato ancora per altri anni in quel comune, col terrore ogni volta di scrivere una parola che potesse decidere il futuro delle persone, e poi me ne sono andata. Quindi lei si rendeva conto che in realtà era un compito sopradimensionato rispetto alla buona volontà e lo stato d'animo di un assistente sociale? Quasi entra in dei campi in cui il giudizio deve essere dato da un neuropsichiatra, da un perito, da qualcuno che deve avere strumenti tecnici un pochino più raffinati che il semplice colpo d'occhio. Quindi voi, gioco forza, pensate che in fondo la mamma era sempre la scelta migliore alla fine? Anche perché ti veniva detto, quello non l'hai segnalato, guarda che madre ha, cioè a un certo punto ci era stato detto: voi comunque dovete segnalare tutti, che era una cosa che, voglio dire, faceva venire il terrore, e alla sera io non riuscivo a dormire pensando a certe situazioni. Così ho deciso che, visto che le cose non cambiavano, me ne sono andato, ho cambiato lavoro. Grazie, inutile commentarla perché ha semplicemente dato un tassello in più rispetto a quello che abbiamo detto. Andiamo velocemente all'epilogo della storia. Tua madre è stata condannata, sì, per questa denuncia, per questo maltrattamento. Quanto ha scontato di carcere? Ha scontato all'incirca 2 anni e mezzo di carcere insieme al suo compagno. Tutti e due. Sono stati anche separati all'interno del carcere perché riuscivano a contattarsi. In Francia questo? In Francia, sì, a Draguignan e a Marsiglia. Addirittura ingaggiarono un detective per seguirmi. Che da poi dentro? Confessò. Sono usciti? Da dentro, sì, sì, assolutamente. E quando sono stati liberati cosa ti hanno detto a te in Francia? Mi hanno chiesto se volevo una scorta, perché una donna che era capace di aver preparato un agguato all'ex marito, figuriamoci nei confronti della figlia che l'ha mandata in carcere. Durante l'udienza ti ha detto: ti uccido. Sì, e io le dissi: già sei morta tu, era nel box di accusa e poi dovetti uscire. E adesso perché nuovamente è dentro tua madre? Dunque, tornarono a far parlare delle cronache nel 2007, tornarono in carcere entrambi in Portogallo perché furono accusati di essere inizialmente anche i possibili rapitori della bambina inglese Madeleine McCain, e dopo si scoprì invece che cercarono semplicemente, se così si può dire, di estorcere del denaro a questi genitori disperati che disponevano di una grossa somma da dare a chiunque avesse informazioni all'epoca. Quindi tornarono a far parlare tutte le cronache nazionali e internazionali del caso e tornarono in carcere. Di conseguenza, purtroppo, venne a scoprire che i due bambini all'epoca maltrattati, che non erano figli appunto di mia madre ma erano solo biologicamente figli del suo compagno Danilo Chemello, erano con loro. Quindi vuol dire che, dopo aver scontato la prima condanna in carcere, la giustizia francese, per un fatto diciamo biologico, gli ha ridato riconsegnò i figli. E io capì veramente quanto allora fosse inutile, oltre che impossibile, anche cercare di ricontattare quei bambini, quei ragazzini, anche perché mi era stato vietato dal padre, ossia Danilo Chemello, e non venni più a sapere nulla del loro futuro. Quindi tutta la tua vita, dei precedenti 30 anni, alla fine hai tagliato tutti i fili. Esatto. L'unico che è rimasto idealmente per te ricollegabile è quello con tuo padre. Esatto, che vorresti vedere ancora. E ancora aspetti. Quanti anni ha tuo padre? Credo che ne abbia 83. Beh, non è detto che non ci abbia ascoltato questa mattina. Grazie Carolina, alla prossima. Grazie a voi.